Storiacce di Raffaella Calandra. Ehi, Pulce, non tornare tardi. Sì, lo so. Vieni a darci un bacetto prima di uscire. Bacetto. Fatelo dare da lei, è lì apposta. Hai più pensato a fare quella telefonata? No, potrebbe veramente ferire le mamme. Possibile che tu non sia curiosa? Ognuna delle mie mamme ha avuto un figlio, col tuo sperma. Tutte e due, diciamo. Diciamo gay. Grande, cioè, forte. Io adoro le lesbiche. Perfetto. Sì, ho capito, è il padre biologico e tutte quelle stronzate. Ma perché, scusa, noi non gli bastiamo? Non pensavo che avrebbero usato il mio sperma. Perché no? Io lo userei. Padre donatore. Un fico spaziale. È single? Prima di tutto, beh. Due mamme, due figli, uno stesso donatore per generarli. Ma i ragazzi stanno sempre bene, come titola il film. Come in tutte le famiglie, anche in quelle con due madri o due padri, non sempre è tutto semplice. E qui, nella perfetta routine di una casa americana, dove le unioni omosessuali sono riconosciute e le adozioni anche, irrompe il desiderio dei figli di conoscere quel padre biologico, che non è però padre nella vita vera. Altrove, invece, come in Italia, la quotidianità porta altre questioni in queste famiglie, e tutte riconducibili soprattutto ad uno stesso tema di base: la mancata possibilità di adottare il figlio del compagno. La famosa stepchild adoption, su cui la politica si è arrovellata e scontrata, in realtà esiste già nelle aule dei tribunali, che già più volte hanno dato il via libera alle adozioni. E da qui allora parte questa puntata di Storiacce, dentro le vite delle famiglie arcobaleno, dentro la realtà che passa nelle aule giudiziarie, ma anche dentro la banca dati delle adozioni italiane, con non poche sorprese. La realtà sociale evolve continuamente, il nostro legislatore è molto lento. E questa realtà Melita Cavallo l'ha vista ogni giorno sotto i suoi occhi per 40 anni, nei palazzi di giustizia di Milano, Napoli e Roma, e ora da presidente del Tribunale dei minorenni più grande d'Italia, quello della Capitale. Prima di andare in pensione ha spalancato la strada alle sentenze pilota sull'adozione per le coppie gay. Tolta dal disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, la stepchild adoption dunque di fatto già esiste. Esiste nelle pronunce dei giudici, tra incertezze normative e ancor più polemiche politiche. Ma al di là di tutto, questa resta, per riprendere le parole del presidente Cavallo, una parte della società in evoluzione. E in quanto tale, al di là delle proprie opinioni e delle opinioni che ciascuno di noi può avere, questa è una fetta di società da raccontare, perché composta anche dalle due donne che hanno visto ora il via libera all'adozione incrociata delle due figlie, una delle tante famiglie arcobaleno, cioè che si sono rivolte all'associazione guidata da Marilena Grassadonia. Abbiamo una coppia di donne che stanno insieme da tanto tempo, sono nate due figlie all'interno di questo progetto di coppia, di progetto di genitorialità. Nel caso specifico le bambine sono state partorite una da una mamma e l'altra dall'altra mamma. Sono entrambe nate con una inseminazione fatta in Danimarca. Esatto, entrambe nate con una inseminazione fatta in un paese appunto come la Danimarca, in questo caso specifico, dove ovviamente questo è fattibile in maniera assolutamente legale, e che sono nati, ricordiamolo, ormai da più di 30 anni per le coppie eterosessuali sterili. Quindi comunque non ci siamo inventati nulla, tra virgolette, ma accediamo a quelle tecniche già che esistono e che possono essere appunto utilizzate in maniera legale. Ecco, ci racconta un po' la battaglia giudiziaria che hanno fatto queste due donne. Una richiesta che viene fatta al Tribunale dei Minori in base alla legge sulle adozioni, nel caso specifico l'articolo 44 della legge sulle adozioni, quella che consente appunto le adozioni in casi particolari. Non è il primo caso che è stato presentato nei tribunali d'Italia, ci sono state in precedenza anche altre sentenze che hanno avuto come oggetto appunto l'adozione da parte dell'altra mamma della figlia nata dalla partner, diciamo, dalla mamma biologica, e questo, in queste sentenze la cosa importante è che viene riconosciuto il nucleo familiare, e quindi ciò significa che viene riconosciuto non solo il legame giuridico che ci sarà tra la mamma non biologica e il minore, ma comunque viene riconosciuto proprio il legame familiare all'interno della coppia, ed è il motivo per cui è stato deciso da parte del giudice che le bambine possono assumere lo stesso cognome. Le due bimbe avranno lo stesso doppio cognome, ma per la legge non saranno sorelle. E questa è la situazione che si sta creando, una situazione senza precedenti, bisogna dirlo, con una realtà nuova e leggi vecchie. E chissà come tutto questo venga vissuto all'interno di queste famiglie. Se ci state ascoltando, se volete scriverci, siamo sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter, ci trovate all'account Raf Calandra. Tecnicamente questo è possibile tra le pieghe di una legge applicata già da 33 anni, ricorda Melita Cavallo, già storico presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma. Una legge che prevede i casi particolari e di sicuro avere gli stessi genitori ma non essere sorelle è diventato un caso particolare. Così l'ha inquadrato il Tribunale di Roma, guidato appunto da Melita Cavallo, anche se non ovunque il rapporto con ascendenti e collaterali, per dirla con un gergo giudiziario, vale a dire fratelli, zii, nonni, viene valutato allo stesso modo. Non potranno dirsi sorelle, si sentono sorelle, perché questa adozione in casi particolari crea il vincolo esclusivamente con la ricorrente, con la, in questo caso la ricorrente compagna della madre. Mi spiego, non crea il vincolo con gli ascendenti, cioè con i nonni, non crea il vincolo con gli zii, anche se li considera zii. E se gli zii la considerano nipote, perché è un'adozione in casi particolari. Il caso particolare sta a significare anche questo, che crea il rapporto solo con colei che adotta. Però, siccome oggi tutti i figli sono uguali di fronte alla legge, gli adottivi, i legittimi, i naturali, allora c'è una parte della dottrina che dice che anche con l'adozione in casi particolari si costituisce il vincolo con gli ascendenti e con i collaterali, ok? Quindi certo. Ci sono due linee di pensiero. Ok, in questo caso specifico, come mi stava spiegando, il vincolo si crea esclusivamente, diciamo così, cioè, con le due donne. Diciamo secondo quella, diciamo, la teoria tradizionale, si crea esclusivamente con la ricorrente, quindi con la compagna della madre. Però c'è una linea di pensiero che dice che anche in questo caso si crea il vincolo sia con l'ascendente sia col collaterale, ok? Ho capito. E questo praticamente è reso possibile dal fatto che anche all'interno della norma già esistente, quindi non c'entra niente con la stepchild adoption che non esiste, anche con le norme già esistenti c'è un varco per i casi appunto particolari. Nel Tribunale per i minorenni di Roma non si è sostituito, come qualcuno ha inteso dire, al legislatore, ma ha applicato una legge che applicava già da oltre 20 anni, dall'84 ad oggi. Quanti anni sono? Sono 32 anni. Ecco, applicava da quasi 30 anni e quindi l'ha applicata anche nel caso in cui una delle ricorrenti è compagna dell'altro, perché abbiamo un principio della nostra Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, diciamo, e non ci si può fare differenza né per sesso, né per etnia, né per religione, né per altro. Quindi non abbiamo potuto discriminare, perché finora quando i partner erano, diciamo, di sesso diverso, l'adozione si è sempre fatta. L'impressione che si ha in realtà è che sembra che da una parte ci sia la battaglia politica sui principi, con prima lo scontro feroce, poi le trattative tra i partiti e alla fine l'approvazione della legge, ma senza la famosa stepchild adoption, e dall'altro ci sia la vita di centinaia di persone che continua ad andare avanti secondo i propri binari, a prescindere dal dibattito politico. E i due piani si sono incrociati e si sono infervorati ancora di più quando lo scontro politico ha preso le forme rotonde di un neonato, del piccolo Tobia Antonio, figlio di Nichi Vendola e del compagno Eddie Testa, padre biologico del bimbo nato negli Stati Uniti da un utero in affitto. E allora, anche nel suo paese, Terlizzi, in Puglia, la gente si è schierata su opposte barricate. Non c'è nessun egoismo di niente. Guarda, io penso che è un diritto, anche quello. Ognuno ha bisogno di avere anche dei bambini, crescere dei bambini. Da quando il mondo è stato mondo è stato investito così, come tutto. Che loro si sposano, uomini e uomini, ma donne e donne, allora la vita loro sono d'accordo, però che adottano un bimbo, un bambino, non sono d'accordo. Non trovo il senso della situazione. Preferirei adottare un bambino che è già nato. Questo è un caso diventato l'apertura di tutti i giornali, un caso mediatico, intorno al quale si è ulteriormente incattivito lo scontro politico. Ma sono almeno 500, stimano le associazioni, i bambini potenzialmente coinvolti in altrettante cause di adozioni e di fatto solo a Roma, già almeno in una quindicina di casi, il Tribunale ha reso possibile, sia pur con dei limiti, quello che la legge per ora non prevede. Ma tutto questo avviene anche per le enormi difficoltà esistenti nelle adozioni? Lo sentiamo nella seconda parte di Storiacce. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Storiacce. Mi chiamo Sara, ho 8 anni. Mi chiamo Federico, ho 10 anni. Mi chiamo Margherita, ho 8 anni. La mia famiglia è composta da due mamme, Elena e Giuliana, un gemello Joshua e un fratello più grande che si chiama Federico, ha 10 anni, e 5 gatti, più un acquario con dei pesci. Ma quanti papà c'hai tu? 2. Faccio papacco. Ho 2 mamme e 3 fratelli. La mia mamma Annie, mia mamma Miki, il mio papà Lenny, però io lo chiamo Babu, e mia sorella Noah. Da una parte ci sono loro, bimbi bellissimi, come tutti gli altri, con le loro vite normali e le loro famiglie dalle più varie composizioni, e spesso ci si dimentica che dietro gli scontri politici ci siano loro, bimbi bellissimi appunto, in carne ed ossa. E poi spesso, assai distante, da tutt'altra parte c'è la politica, con i suoi toni. Non possiamo immaginare che siccome le tecnologie e la scienza lo permetta, oggi apriamo i supermarket dei bambini e mettiamo il codice a barre su un bambino. Il bambino non può diventare una merce. Archiviato il capitolo delle unioni civili, il dibattito e lo scontro politico si è spostato anche in questi termini usati dal grillino Di Maio sulla questione dell'utero in affitto, che ha avuto un'accelerazione soprattutto dopo la nascita del figlio di Nichi Vendola e del compagno Eddie Testa. Ma tutto questo è dovuto anche alla difficoltà delle adozioni? Di sicuro in Italia c'è una sproporzione molto forte tra le famiglie che vorrebbero un bimbo e i piccoli che non desidererebbero altro che dei genitori. Nel 2014, ultimo anno su cui ci sono dati certi, solo 1.072 bambini sono entrati in una famiglia. Se poi si considerano anche i 940 dell'affido e gli altri 2.000 giunti in Italia per essere adottati, si arriva quasi a 4.000 bambini. Anche se è brutto, lo ammetto, fare così dei calcoli, trattandosi delle vite di bimbi. Però anche questi numeri, anche questi 4.000 bimbi in attesa di adozione e le oltre 9.000 famiglie invece che lo vorrebbero, per la precisione 9.657, sono state le domande nel 2014, anche questi numeri, dicevamo, fanno capire come sia difficile tutto, come sia difficile adottare, come ben sa Francesco Cascini, magistrato passato dalla trincea della Procura di Locri alla guida del Dipartimento per la Giustizia Minorile, che gestisce pure la banca dati sulle adozioni nazionali. Le singole autorità giudiziarie inseriscono nella banca dati le indicazioni relative ai minori adottabili. Ovviamente la funzione della banca dati rispetto al suo obiettivo finale è quello di trovare, perché oltre ai minori sono inserite anche le famiglie disponibili all'adozione, di trovare le famiglie che sono in grado di accogliere anche i minori per i quali nella sede territoriale non si riesce a trovare una sistemazione adeguata. Che non vengono adottati nel loro territorio, quindi nella loro regione, giusto? Qui parliamo di bambini che stanno in Italia, evidentemente possono essere anche stranieri, ma sono sempre adozioni nazionali. Gli ultimi dati che voi avete sono del 2014 e che cosa ci permettono di dire? I dati sulle adozioni sono, leggendo lo storico, diciamo, sono più o meno stabili, non ci sono grossi cambiamenti nel corso degli anni. Il numero dei minori adottati nel corso dell'anno 2000, dei bambini adottati nel corso dell'anno 2014 è inferiore al numero delle domande, perché le procedure finalizzate a verificare la capacità genitoriale inevitabilmente prendono del tempo. C'è una, come dire, disponibilità di bambini adottabili che è sempre inferiore al numero delle famiglie che fanno richiesta. Questo accade non solo in Italia ma in qualunque paese. Gli ultimi dati che cosa appunto ci dicono? Nel 2014 sono un poco più di 1000 i bambini italiani che sono stati, per i quali si è conclusa una procedura di adozione. Ci sono circa poco meno di 4000 le famiglie che hanno dato la disponibilità per gli stranieri, mentre sono circa 9000 quelle che hanno dato disponibilità per adozione nazionale, che hanno fatto domanda. Quindi una forte sproporzione tra il numero di bimbi in attesa, diciamo, di entrare in una famiglia e le richieste delle famiglie. Come lei ci diceva, questa sproporzione è dovuta soprattutto ai tempi che sono necessari prima di ottemperare, di valutare tutte le singole richieste delle famiglie, no, è così? Il tempo è soltanto una componente, è proprio una differenza di numeri, cioè rispetto alle richieste che provengono dalle famiglie il numero di minori adottabili è di lunga inferiore. Perché sono i casi che alla fine è stato più difficile inserire in una famiglia nel loro territorio? C'è un certo numero di minori che orientativamente dalle rilevazioni che noi facciamo è piuttosto contenuto, ma c'è un certo numero di minori per i quali è più difficile trovare una soluzione, o perché sono già più grandi o perché magari hanno alcuni problemi specifici che ne rendono difficile l'adozione. Il numero complessivo per i quali si trova una certa difficoltà alla collocazione in famiglia è circa 300. Chiaramente quando c'è un bambino grande che ha magari problemi di salute è più difficile trovare una famiglia disponibile ad adottare. Un fatto è triste ma facile da immaginare. Invece avete una stima anche dei tempi per la conclusione di una richiesta di adottabilità? Sono molto variabili perché dipende moltissimo dagli accertamenti che vengono fatti e dalla disponibilità della famiglia a proseguire il percorso. Non possiamo dire che mediamente ci vogliono 2-3 anni. Il tema delle adozioni si ripropone spesso tra le pieghe del dibattito su utero in affitto e stepchild adoption, la possibilità cioè anche per le coppie omosessuali di adottare il figlio del compagno. Come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, anche se tolta dalla legge, di fatto questa già avviene nelle aule dei tribunali. Solo è affidata di fatto alla discrezionalità dei giudici, su cui si sta riversando un'onda sempre più grande di cause delle famiglie arcobaleno, che davanti alle necessità dell'attualità ricorrono allora alla giustizia. Una di queste è anche quella della presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, Marilena Grassadonia. Noi siamo una delle tante famiglie che potenzialmente potrebbero avviare questo procedimento. Noi speriamo di poter avere al più presto doveri nei confronti dei nostri bambini. Guardi, io sono madre di 3 bambini, il più grande l'ho partorito io, gli altri 2 li ha partoriti la mia compagna e io desidererei veramente poter essere inchiodata ai miei doveri di madre nei confronti non solo del bambino che ho partorito ma anche nei confronti degli altri 2 miei figli. Siamo famiglie come tutte le altre, quindi può capitare l'imprevisto in qualsiasi momento e l'imprevisto può anche essere una separazione e quindi bisogna sempre, quando si fanno questi discorsi, provare a mettersi dal punto di vista del bambino e capire quali sono le azioni migliori per poter tutelarlo. Qual è la tipologia di richiesta che più frequentemente vi viene sottoposta anche per avviare un iter giudiziario? In Italia l'unico genitore legalmente riconosciuto è il genitore biologico, cioè, di conseguenza abbiamo delle difficoltà quotidiane. La tragedia, quindi eventuale morte del genitore biologico, è solo uno dei casi che si può creare in modo tale che il bambino possa avere dei problemi e delle difficoltà. Noi parliamo di quotidianità, parliamo di non poter firmare le deleghe a scuola, di non poter dare un'autorizzazione per una gita scolastica, di rischiare di non poter stare accanto al nostro bambino se dovesse succedere qualcosa in ospedale. Il bambino deve, secondo noi, essere tutelato nei suoi affetti e nei suoi diritti. Mi sembra di capire che fino adesso, diciamo, ci siano state delle sentenze di apertura nei confronti delle famiglie arcobaleno e dell'adozione dei bambini, soprattutto per coppie di 2 donne rispetto a quelle di 2 uomini, è così? Finora le sentenze che ci sono state emesse sono state fatte per 2 donne, ma credo perché siano state le donne, siamo in una maggioranza assoluta rispetto alle coppie di papà, che a livello numerico siamo di più e quindi abbiamo cominciato prima a fare queste richieste. Non credo ci sia non c'è nessuna sentenza negativa nei confronti di 2 padri. Su questo poi la politica si divide e si scontra moltissimo, tra quelli che sono fermamente contrari e quelli che lasciano delle aperture future, anche ora dopo lo stralcio della legge sulla stepchild adoption. Sono temi delicati e difficili, bisogna dirlo, come sempre, quando si vanno a toccare questo genere di questioni. Ma noi qui, come sempre, accantonata la parte politica, abbiamo voluto vedere come già fosse in realtà la situazione delle adozioni anche per le coppie omosessuali. Ma su questi temi si confrontava già molto tempo fa anche l'antichità classica. Linea allora, come sempre a questo punto, alle mitiche storiacce e a Giorgio Ioranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Si sente dire ogni tanto che nella Grecia antica l'omosessualità era vissuta liberamente e senza problemi. Poi sono arrivati i cristiani, oscurantisti, che hanno iniziato a perseguitare gli omosessuali. Non è proprio così. In fondo è una favola, ma una favola a cui spesso si è voluto credere anche a scopo autoconsolatorio, per esempio nell'Inghilterra della regina Vittoria, dove, come insegna il caso di Oscar Wilde, si poteva finire in carcere per omosessualità. Certo, ai greci non pareva strano essere attratti da una persona dello stesso sesso. Tutto ciò che era bello poteva suscitare il desiderio. Ma se leggete le commedie di Aristofane, che riflettono spesso il punto di vista dell'ateniese medio, trovate insulti irripetibili contro gli omosessuali, in specie se passivi. In una società maschilista come quella greca, l'uomo doveva dominare sempre e comunque. Se assumeva un ruolo passivo, era disprezzato. L'omosessualità poteva essere ammessa nel rapporto tra un uomo maturo e un ragazzo giovanissimo, quello che in greco si chiamava appunto amore per i ragazzi, cioè pederastia. Paradossalmente, insomma, i greci erano più tolleranti proprio verso quella forma di sessualità che oggi a ragione è considerata la più riprovevole. Ma questi rapporti educativi tra un uomo maturo e un giovane, come per esempio quello tra Socrate e Alcibiade, erano cose per aristocratici, per gente fine. Di sicuro gli antichi alle unioni gay non ci pensavano. Conoscevano però la stepchild adoption. L'imperatore Augusto, per esempio, adotta Tiberio, figlio di primo letto della moglie Livia. Niente utero in affitto, comunque. Quando fu adottato, Tiberio aveva già 46 anni. E voi cosa pensate delle adozioni anche per le coppie omosessuali? Scriveteci alla 349-238-6666 anche con un messaggio WhatsApp, oppure se vi va commentate sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it. Ciao a tutti, ci sentiamo presto.